Io non riesco mai a guardarti e dirti quello che vorrei. Mentre annego nei tuoi occhi non ho più pensieri miei. Così un giorno nel tuo bagno e con il tuo rossetto blu io l'ho scritto sullo specchio quello che per me sei tu. Tutta la luce che non cade su di te è uno spreco d'ombre, ecco che cos'è. È tutto il suolo che il piede tuo non tocca, è distesa arida, è tutta terra sciocca. Tutta perso, è vento di tempesta. Tutta l'acqua che non ti può baciare è pozza immobile che non sa sognare il mare. Tuo viso è il mio bianco carcere, il mio nero paradiso. È tutto il buio dove immagino il tuo viso. È il mio bianco carcere, il mio nero paradiso. Tutta la luce che non cade su di te è uno spreco d'ombre, ecco che cos'è. Suolo che il piede tuo non tocca, è distesa arida, è tutta terra sciocca, tutta. Rimangono l'aloni pure.